Il modo che ho di conversare con te in questo momento, e con voi in questo momento, non può dirsi certo scientifico. È un approccio artistico alla conoscenza, che procede per metafore, poetico. Non scientifico, ma attenzione, che non disdegna i contributi della scienza. Perché io sono uno che frequenta gli ambienti scientifici. Però non mi basta frequentare gli ambienti scientifici. Gli ambienti scientifici ti danno una certa cosa. Poi questa cosa, questa conoscenza, va erotizzata, va tradotta in formule di gioco e comunicazione piacevole, va resa conviviale, altrimenti quella conoscenza rischia di diventare sterile o addirittura distruttiva. Chiudo questo nostro ragionamento con questo simbolo: forza, gentilezza, humor. Forza del maschile, in questo caso potremmo collegarlo con la scienza, poi la filiazione, il fatto di partecipazione conviviale, che lo potremmo vedere, l'amorevole gentilezza è più femminile, e poi l'uomo e il gioco, che è del bambino. Tutti e tre ci devono essere per una vita